Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Tra moglie e marito non mettere il dito, dice un proverbio antico. Intanto saluto subito il presidente dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, Carlo Garofolini, che è con noi al telefono. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, ho cominciato con un proverbio, tra moglie e marito non mettere il dito, ma in questo caso l'Adico ci ha messo la parola, perché oggi parliamo, ahimè, di separazioni. Sì, parliamo di quello che è stato l'ultimo sportello presentato qualche giorno fa, e questo per rendermi conto di come ormai le problematiche di cui l'Adico è interessata ormai sono sempre di vari ambiti, di vari campi, perché sempre più persone in quest'ultimo periodo sono venute a chiedere informazioni per quanto riguarda la legge 132 del 12 settembre 2014, che introduce importanti novità in materia di separazione e di divorzio, semplificandone quindi anche quella che è l'iter e i costi rispetto a una volta che bisognava andare avanti al giudice e avere la presenza degli avvocati. E oggi abbiamo voluto fare quello che è un focus sui primi 40 casi che abbiamo trattato, per capire un po' quelli che sono la tipologia delle coppie che si rivolgono a noi, ma soprattutto quelli che sono anche i motivi che spingono le persone a compiere questo passo. E certamente i dati che ne sono emersi possono essere veramente materiali di riflessione tra di noi, ma anche per gli ascoltatori. Infatti, insomma, si sa che quando si parla di separazione, di divorzio, questa cosa mette in crisi le due persone, sia nei sentimenti che poi anche nel dover tirar fuori parecchi soldini. Allora, guarda Francesco, nei primi 40 casi che abbiamo analizzato è emerso come il 65% delle coppie che decidono di separarsi hanno un'età compresa tra i 42 e i 50 anni, un altro 23% tra i 50 e i 65. Abbiamo anche un 8% di coppie, quindi in questo caso sono state tre, di over 65, e che hanno deciso di separarsi dopo oltre 25 anni di matrimonio, e fortunatamente solo il 4% under 35, due dati che avrei pensato invece sarebbero stati il contrario. È vero che i motivi emersi dalle indagini hanno fatto capire che la causa scatenante, al di là di quelle sono le cause scatenanti, ma di fatto c'è la crisi economica. Probabilmente la crisi e la difficoltà di arrivare a fine mese mettono sempre più a dura prova le coppie, tanto che insomma, una coppia su due hanno dichiarato che ci si separa per problemi alla crisi, anche se poi nel dettaglio scopriamo che non c'è solo la crisi economica, perché la crisi economica è quella che mette di fatto in condizione le coppie di decidere di separarsi per un fattore di insostenibilità in ambito familiare, nella sfera familiare, però bisogna anche dire che abbiamo avuto anche altre percentuali inferiori certamente, ma che riguardano anche tradimenti, problemi di salute e quant'altro. Comune di tutto questo normalmente c'è l'età adolescenziale dei figli, quindi sembra quasi che la crisi economica in coincidenza con la crescita dei figli inducono un pochino queste coppie a scoppiare. Però ricordiamoci anche come la crisi economica non significa che le coppie si separano perché non hanno soldi, ma il fatto che si trovano in condizioni di difficoltà economica, c'è stato come un logorio di quelli che erano i rapporti che magari una volta per altre ragioni insomma invece andavano bene. Carlo, facendo un po', come dire, quello che ci mette il naso, no? Mi viene da pensare anche a delle false separazioni. Questo per come dire, dividere i redditi della famiglia o per avere dei vantaggi economici legalmente, può essere? Può anche essere certamente, però dobbiamo anche pensare che insomma la tipologia di utente che si rivolge all'Adico è una tipologia di uno certo standard, che insomma è più difficile pensare di sospettarlo, però sono d'accordo con te, il ragionamento ci sta e il sospetto può essere lecito. Dobbiamo dire comunque e ricordare che l'Adico con questo sportello non è che vuole incentivare separazioni e divorzi assolutamente, però vuole anche dire che chi vuole farlo sappia che non è più costretto a doversi avvalere di avvocati o di giudici, se rientra nelle condizioni che nello sportello potrà leggere sono molto semplici e ci deve essere fondamentalmente la consensualità o la presenza dei figli autonomi economicamente, non se i figli sono minorenni, ma che comunque dà possibilità ai soci dell'ADICO venire da noi, i nostri esperti valutano e analizzano se sono nelle condizioni di poter rientrare in questa legge che permette appunto la semplificazione della separazione. Se ci sono, il socio deve ricordarsi che ha due possibilità: o ridare l'atto e la modulistica direttamente all'ADICO con i nostri collaboratori, oppure, sempre con la nostra modulistica e quant'altro, rivolgersi direttamente ai comuni e quindi consegnare i nostri moduli e agire direttamente. Noi diamo tutte le possibilità, chiaramente poi ci auguriamo insomma di non avere tanti casi, ma purtroppo i numeri ci fanno presagire il contrario. E vabbè, speriamo che le cose vadano meglio e che anche lo Stato si ricordi della famiglia in genere per aiutarla, insomma, a restare compatta e unita. Che dire, grazie intanto all'ADICO per averci raccontato questi ennesimi casi. Con l'ADICO l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Grazie a Carlo Garofolini, l'appuntamento è per martedì prossimo. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.